La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 125. Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione. Continuiamo con la lettura e il commento della nostra Costituzione in occasione dei 70 anni dalla sua entrata in vigore. Passiamo oggi all'articolo 125, perché l'articolo 124 è stato abrogato nella revisione costituzionale del 2001. Anche l'articolo 125 è stato parzialmente abrogato, per cui è ora composto soltanto da un comma che riguarda la giustizia amministrativa. In particolare, l'articolo 125 ora vigente precisa che in ogni regione il controllo di legittimità sugli atti amministrativi è esercitato da organo dello Stato, secondo limiti stabiliti da legge. Questo articolo è la base dei tribunali amministrativi regionali, cioè dei TAR, che garantiscono oggi il primo grado della giustizia amministrativa. Il secondo grado è infatti previsto dal Consiglio di Stato. Sappiamo che la giurisdizione in Italia è unica e unitaria, perché abbiamo giurisdizione da una parte del giudice ordinario, civile e penale, quella generale, e poi abbiamo giurisdizioni specializzate, ad esempio quella amministrativa, come poi quella militare, quella contabile e quella tributaria. La giurisdizione amministrativa riguarda la tutela degli interessi legittimi, cioè dell'interesse dei cittadini a che la pubblica amministrazione agisca in piena legittimità e secondo i principi di buon andamento. Questa giustizia viene esercitata dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, in primo grado e in appello al Consiglio di Stato.